Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, abbiamo letto qualche giorno fa dei giovani della zona grigia, quelli che abbandonano la scuola prima del tempo, sono dati che ci ha dato la rivista Tutto Scuola che poi ha ripreso il Corriere della Sera. Allora parliamo di giovani e soprattutto parliamo di scuola, lo facciamo in occasione dell'uscita del libro di Paola Mastrocola, insegnante in un liceo scientifico, autrice di romanzi, poetessa, grande appassionata della scuola, che ha appena pubblicato con Guanda Togliamo il disturbo, saggio sulla libertà di non studiare. 278 pagine, 17 euro. L'autrice parte da una constatazione, ossia quella che nel dibattito sulla scuola esiste oggi un culturally correct ingombrante, greve. Siamo intrisi fino al midollo, scrive, di idee sulla cultura e sulla scuola neutralmente buone, quiete, grigie, tranquille, che si possono cioè tranquillamente avere, che vanno sempre bene perché le abbiamo tutti e quindi non si fa brutta figura dirle. Insomma, tanto conformismo. E allora per rompere questo conformismo, per rompere queste idee che formano quasi il guscio durissimo di una tartaruga, la Mastrocola tenta di inserire delle idee sghembe, come le chiama lei, delle idee scorrette, e per arrivarci segue tre tappe. Nella prima ci presenta i giovani di oggi, tendenzialmente ignoranti, come dimostra un artigianale sondaggio sui test d'ingressi al liceo scientifico. Un'ignoranza, e qui l'autrice cita Calvino, che purtroppo cela l'incapacità che poi resterà per tutta la vita, quella di possedere il senso dell'esattezza. I ragazzi magari sono anche interessati, attenti, partecipi, scrive l'autrice, ma assolutamente disinteressati a studiare. Nella sua classe, su 25, ce n'è solo uno che è capace di studiare, il mitico De Monte. Non sono cattivi o becero indifferenti, scrive l'autrice, magari sono anche abbastanza interessati alle lezioni, ai libri, ma non c'è posto, hanno semplicemente altro da fare, molto altro da fare che non studiare. La seconda tappa è quella che ricostruisce gli ultimi 60 anni di storia della scuola italiana, 60 anni punteggiati da molti errori e da molte cattive interpretazioni, per esempio quella sul libro di Don Milani, che ha avuto dei risultati sconvolgenti, per esempio quello di costringere ciascuno a non progredire, a lasciare, scrive la Mastrocola, le persone come sono, ognuno si tenga le nozioni che ha già, che gli vengono dalla famiglia in cui è nato, ognuno abbia dunque la vita che già la sorte gli ha dato. E poi la terza parte, quella sulle ricette, sulle proposte, sulle quali sentiamo adesso l'autrice. Buongiorno a Paola Mastrocola. Buongiorno. Paola Mastrocola, nel suo libro lei a un certo punto lascia intendere che lo studio sembra ormai essere fuori moda, ma questo anche per gli adulti, o mi sbaglio? Cioè gli adulti che non studiano o gli adulti che non fanno studiare? No, gli adulti che condividono questa idea. Sì, sì, sì. Infatti direi che lo studio è uscito dalla nostra vita, nessuno ci crede più. Non ci credono ovviamente i ragazzi, come in fondo tutti noi abbiamo pensato, però con una grande differenza che le generazioni precedenti naturalmente avevano anche loro poca voglia di andare a scuola. Sa, la scuola è un fatto innaturale e costrittivo, diciamoci la verità. Però una volta pensavamo che fosse utile e doveroso. Pensavamo a parole tipo responsabilità, dovere, obbligo, che in qualche modo aiutano una costrizione positiva. Oggi invece siamo in una società del benessere, pensiamo innanzitutto al piacere delle nostre vite e ovviamente lo studio, ahimè, non è visto come un piacere e invece bisognerebbe cominciare intanto a vederlo come tale, perché superata una certa soglia, cioè anni di effettiva fatica, poi è un enorme piacere capire un problema di matematica o una poesia, un sonetto di Shakespeare. Ecco. E lei sulla scuola attuale dà un giudizio molto severo, la definisce una scuola pantano, uguale per tutti, uguale a se stessa, tutti immersi fino al collo, stessa altezza, stessa palude. Come mai un giudizio così severo? Beh, perché vedo che insomma non è stata chiarita un'idea di scuola. O meglio, diciamo che la scuola dell'obbligo naviga più o meno su un'idea di scuola come luogo di assistenza in senso lato, assistenza sociale, psicologica, un luogo di aiuto, di intrattenimento, di socializzazione, non di cultura. Poi arriviamo ai licei, alle superiori, insomma, dove sì, si fanno ancora cose legate alla cultura. Non si possono più fare molto seriamente perché le basi in 8 anni di scuola dell'obbligo non sono state messe E quindi anche il liceo è annacquato, arriva dove può e consegna all'università ragazzi che poi non sono in grado di farla. E infatti manco si iscrivono più, o se si iscrivono abbandonano. Fenomeno che è tragico per l'Italia. Infatti lei propone un modello in cui ci dovrebbero essere tre scuole, una scuola per il lavoro, una scuola per la comunicazione, una scuola per lo studio. Ma in fondo una volta non era così, a parte la scuola per la comunicazione che non esisteva. Ma guardi, una volta lasciamo perdere, noi dobbiamo pensare al futuro. Io quello che dico è, non mi sento in grado di imporre, ahimè, nulla. Se fosse per me, imporrei una scuola di altissimo livello a tutti, dalla prima elementare. Ma dalla prima elementare, se non dall'asilo. Detto ciò, ahimè, lasciamo tutti liberi, perché sa, alla maggioranza della gente piace molto questa scuola dove si fa poco, dove ci si diverte, anche tecnologica. Per carità, l'ultimo mito in cui crediamo ciecamente è internet. Allora, lasciamo che la gente scelga. Io spero che poi col tempo ci si accorga che la vera scuola è quella della conoscenza. Possiamo imporla? Non so. Ecco, anzi, no, lei a proposito di imposizione conclude il suo libro con un appello alla libertà di scelta, intesa anche come assunzione di responsabilità. Ecco, questa libertà di scelta, io condivido molto questo approccio, non si scontra un po' con l'idea che è molto radicata nel nostro sistema del monopolio dell'istruzione pubblica? Ma l'istruzione può essere sempre pubblica, deve essere per lo più pubblica, ovviamente poi bisogna dare la libertà alle altre imprese o enti di fondare altre scuole, perché no? Però parliamo della scuola pubblica. La scuola pubblica può differenziare l'offerta, diciamo così, in modo più chiaro. Certo, se desse una grande istruzione dell'obbligo alta per tutti, allora poi sì che la scelta è effettiva, cioè che la gente poi può davvero scegliere se ad esempio dopo i 16 anni e dopo aver acquisito gli strumenti per leggere anche i libri difficili o capire i problemi difficili di matematica, di filosofia, eccetera, se decidesse che la sua felicità consiste nel costruire un mobile intarsiato, ma allora sì che faccia una scuola di falegnameria dopo, oppure faccia una scuola tecnica come tecnico informatico, oppure se la sua inclinazione lo porta lì si dedichi allo studio di Kant tutta la vita. Però allora sì, la scelta è fattibile se la scuola è stata seria prima. Grazie a Paola Mastrocola, autrice di Togliamo il disturbo. Buona domenica. Buona domenica a voi. Un rapido saggio sull'importanza della formazione è quello di Piero Cipollone e Paolo Sestito, che sono due economisti della Banca d'Italia. Il Capitale Umano è pubblicato dal Mulino, 132 pagine, 9,80 euro. Questo saggio vuole essere, scrivono gli autori, un libro per illustrare le ragioni dell'importanza del capitale umano per gli individui e per la società, e vuole descrivere come il capitale umano venga prodotto e accumulato soprattutto attraverso la frequenza scolastica. E i due autori esaminano in particolare i risultati del nostro paese, dove, ricordano, si spende nel campo della scuola per ogni studente più di quanto avvenga in molti altri grandi paesi, a fronte di risultati che sono qualitativamente inferiori, provocati anche dal fatto che qui da noi non c'è la motivazione alla concorrenza, anzi all'emulazione, come scrivono i due autori, tra le varie scuole per garantire un servizio migliore, e questo finisce col danneggiare soprattutto le famiglie meno ricche. Un tema particolare sul funzionamento della scuola è certamente quello della trasmissione della cultura umanistica, in special modo della lingua italiana, il cui utilizzo dà luogo a sempre nuove e spesso divertenti o amare sorprese. E allora vi segnalo su questo tema il libro di Luca Serianni, che è un docente di storia della lingua all'Università di Roma, e si intitola il libro L'ora di italiano, scuola e materie umanistiche, pubblicato dalla Terza, 122 pagine, 9 euro. Il libro, state tranquilli, non è un libro per iniziati o per specialisti. L'autore è stato chiamato nella commissione che doveva rivedere per il ministro Gelmini i programmi dei licei, dei nuovi licei riformati, e allora ha deciso di mettere per iscritto alcune idee che aveva elaborato per quella occasione, idee che partono da due presupposti. Il primo, che in fondo le polemiche, leggo dalla sua introduzione, che tanto spesso si levano nei giornali sull'analfabetismo di massa, sono forse da relativizzare. Il secondo presupposto è che nessuna terapia può prescindere dalla fiducia nella possibilità di incidere sulla massa classe di adolescenti inerti o distratti, leggo ancora dal suo libro, valorizzando i talenti dei singoli individui e assicurando loro la necessaria preparazione disciplinare. E Seriani sviluppa le sue argomentazioni sull'insegnamento dell'italiano, ricorrendo anche a molti esempi, a molte esperienze, molte delle quali purtroppo esemplari di una certa tendenza alla rassegnazione. Di Matteo Fini e Alessandra Sestito segnalo Non è un paese per bamboccioni, pubblicato da Cairo, 190 pagine, 13 euro. Sottotitolo: Storie di giovani italiani che ce l'hanno fatta, nonostante tutto. E si raccontano infatti queste vicende di ragazzi che hanno avviato un'attività che ha avuto successo in un paese che ha un tasso di disoccupazione crescente dal 24 al 29,5% per i ragazzi tra i 15 e i 24 anni. Questa è la crescita che si è verificata tra il 2009 e il 2010. Quindi un paese che certo offre meno prospettive di tanti altri ai giovani. In questo libro, in queste storie, c'è di tutto. Ci sono tanti risultati, ma soprattutto ci sono delle idee nuove, intraprendenza, coraggio. E ne esce da queste storie un libro divertente, leggero, come nota Luca Telese nella sua prefazione, efficace forse più di un trattato sociologico per capire le potenzialità di una generazione comunque capace di attraversare il deserto da soli, nonostante le difficoltà crescenti di un sistema anchilosato e corporativizzato. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Si è appena aperta e prosegue fino al 12 giugno a Roma, alle Scuderie del Quirinale, una grande mostra dedicata a Lorenzo Lotto, il grande pittore rinascimentale vissuto tra il 1480 e il 1556, un pittore sfortunato. E in occasione di questa mostra viene ripubblicato il libro di Anna Banti, che è una grande scrittrice italiana vissuta tra il 1895 e il 1985, che fu tra l'altro moglie e collaboratrice di uno dei più grandi storici dell'arte italiano, cioè Roberto Longhi, e autrice appunto di questo prezioso libro su Lorenzo Lotto, che si intitola L'enigma di Lorenzo Lotto, Schirà, 128 pagine, 15 euro. Il libro fu pubblicato nel 1953, quando la figura di Lotto era ancora più appartata e meno frequentata di quanto non sia poi diventata. E proprio questo libro, anzi, contribuì alla riscoperta di questo assoluto genio del Rinascimento che possiamo appunto adesso ammirare nelle Scuderie del Quirinale. Sulla mostra ho chiesto un parere a Marco Carminati. Ciao Marco. Ciao Salvatore. Sì, in effetti la mostra di Lorenzo Lotto è un appuntamento davvero importante alle Scuderie del Quirinale di Roma. È una mostra molto molto significativa, perché nasce dal lavoro di restauro di quasi tutte le grandi pale d'altare che sono sparse nel territorio italiano, in particolare in Lombardia, in Veneto e nelle Marche, le tre regioni dove questo grande e sfortunato artista ha lavorato. La mostra è divisa in due grandi settori: il piano nobile, diciamo così, con le grandi pale d'altare che ci stanno nelle cubature di quegli spazi, ed è in senso cronologico, e poi nel secondo piano si ricomincia da capo, sempre in senso cronologico, con le opere di formato più piccolo, quindi i quadri da stanza, i quadri di devozione e in particolare i ritratti. Ecco, su un ritratto vorrei soffermarmi. È un ritratto di donna realizzato da Lorenzo Lotto negli anni più felici della sua carriera, un artista che faticò moltissimo a venir compreso e considerato, e naturalmente morì povero con l'abito da frate nel monastero di Loreto. Però durante il periodo bergamasco, cioè gli anni tra il 1516 e il 1526, ebbe veramente un periodo felice e si intese molto bene con i committenti di questa città, e quindi fissò molto spesso i ritratti di questi suoi committenti con una benevolenza e anche con un'allegria particolare. Ecco, il ritratto che voglio illustrarvi è il ritratto di una donna, di una di queste nobildonne bergamasche. Fino agli inizi del Novecento non si sapeva chi fosse, poi guardando bene il dipinto, piano piano, come in un gioco di enigmi, sono venuti fuori tutti i dati che ci hanno permesso di riconoscere questa signora. E in particolare si è partiti dall'anello, dove si è vista lo stemma molto piccolo, ci è voluto una grande lente di ingrandimento, della famiglia Brambati, tipica famiglia bergamasca, nobile bergamasca. Qualche anno dopo ci si è accorti che è un particolare che c'è sul fondo, cioè una luna con dentro due lettere, la lettera C e la lettera I. Altro non era che un rebus che riportava il nome di battesimo di questa nobildonna della casa Brembati. Infatti, Lucina è il nome del personaggio che è stato riconosciuto avendo appunto risolto questo enigma. Lotto giocava moltissimo con queste cose. Noi abbiamo tanti altri esempi nei quadri, soprattutto nelle tarsie che Lotto realizzò per la chiesa di Santa Maria Maggiore nella città di Bergamo, appunto. Vi è un dettaglio finale un po' raccapricciante dal nostro punto di vista. Questa donna ha un bellissimo gioiello, anello che le pende sul petto è una sorta di uncino d'oro con una perla e una pietra preziosa. Cosa serviva mai questo strano oggetto? Bene, aveva un uso per noi un po' raccapricciante, era uno stuzzicadenti. Le donne nobili del Cinquecento avevano questo privilegio, si portavano appresso lo stuzzicadente d'oro che tenevano al collo come un pendaglio e come un gioiello. E sempre Schirà, Repubblica, sempre in occasione di un'altra grande mostra, quella dedicata all'Arcimboldo in corso a Palazzo Reale a Milano, le pagine di un altro grande scrittore italiano, Angelo Maria Ripellino, morto nel 1978, che fu autore di un libro straordinario sulla Praga di Rodolfo II. Da quel libro sono state tratte e appunto vengono riproposte le pagine relative al rapporto tra il grande pittore milanese, l'Arcimboldo appunto, e l'imperatore Rodolfo II. Il libro viene pubblicato col titolo Arcimboldo e il re malinconico di Angelo Maria Ripellino, appunto, 68 pagine, 9 euro Schirà. Vi propongo adesso alcuni altri autori dell'Italia letteraria del Novecento. Cominciamo con Curzio Malaparte, 1898-1957, di cui Adelphi sta ripubblicando l'opera. Esce adesso il titolo forse più importante di Malaparte, sicuramente quello più noto e discusso, La pelle, 380 pagine, 20 euro. Questo è un grande affresco sulla Napoli appena liberata nel 1943, vittima di un'autentica peste che corrompe, scrive Malaparte, non i corpi ma l'anima. Le membra, dice l'autore, rimanevano in apparenza intatte, ma dentro l'involucro della carne sana l'anima si guastava, si disfaceva. Era una specie di peste morale contro la quale non pareva vi fosse difesa alcuna. E anzi, proprio la peste avrebbe dovuto intitolarsi questo libro se non fosse uscito prima, come ricordano Caterina Guagni e Giorgio Pinotti, l'omonimo libro di Camus che fu pubblicato nel 47. E lo stesso libro di Malaparte venne pubblicato nel 49, ma dopo la prima edizione in francese, e fu un libro, dicevo, che suscitò enormi polemiche a partire appunto dal grande successo che riscosse subito in Francia. L'altro autore un po' più recente è Giorgio Scerbanenko, di origine ucraina e milanese d'adozione, vissuto tra il 1911 e il 1969, di cui Garzanti sta a sua volta ripubblicando le opere. E Scerbanenko è un grande scrittore di libri gialli e noir e adesso ritorna con una raccolta di racconti intitolata I sette peccati capitali e le sette virtù capitali, 254 pagine, 18 euro, 14 racconti ispirati appunto a un vizio o a una virtù, che compongono una sorta di piccola commedia umana col suo concentrato di abiezioni e di bontà, che ci dà anche un bello spaccato dell'Italia degli anni 50-60. E infine un romanzo calcistico di Giovanni Arpino, vissuto tra il 1927 e l'87, grande scrittore e giornalista, che torna con Azzurro Tenebre, pubblicato da Rizzoli, 256 pagine, 9,80. Questo è un libro del 1977, ambientato nella Germania dei mondiali di calcio del 1974, che si risolse in un disastro per la nostra squadra. E in questo libro il calcio e la disfatta degli azzurri diventano il sintomo di un più generale malessere che coinvolge anche il football, il quale diventa a sua volta, come scrive Massimo Raffaeli nella prefazione, un gioco che non arriva a essere uno sport, un trip di massa, triste succedaneo di un'identità collettiva, la derisoria rappresentazione di un paese senza più memoria né destino, cioè un paese mancato. E sentite da questo libro questa descrizione di alcuni degli atleti italiani che entrano in campo per la partita che segnerà la loro sconfitta, tra cui gli unici due atleti che Arpino salva di quella vicenda, cioè Dino Zoff, che pubblica una bella nota conclusiva di questo libro, e Giacinto Facchetti, così descritti da Arpino. Li vide entrare, figurine smilze negli spazi immensi dell'erba. Gli haitiani trotterellavano con il passo floscio strascicato dei neri. Il bomber subito era scattato dalla fila per forzare i muscoli in piegamenti che tendevano la gamba destra, poi la sinistra, il torso che ruotava veloce sul bacino. Quando furono a centrocampo, inchiodati dagli inni, Arp li inquadrò col binocolo. Prese a controllarli uno per uno. Sandino ha le gote color borotalco, lo sguardo ridotto a una fessura. Raggrinzisce le mani nei guanti. Pare assente, chiuso nel vetro d'una sfera lontana, come i suoi antichi paesani che risalgono il greto del tagliamento e portano pietre al nuovo muro da costruire intorno al podere. La sua solitudine d'uomo di porta è totale. Il volto di Capitan Giacinto è un intrico di minutissimi angoli e sbalzi e rughe e incisioni, però tranquillo gli esce il respiro. S'è lustrato l'alone, la corazza, il filo delle labbra è arido. Solo il vincere può dissetarlo. Il confettino. Segnalo oggi ai nostri piccoli lettori o futuri lettori Chi cerca, chi trova di Delphine Chedru. È pubblicato da Franco Cosimo Panini, tradotto da Giusy Quarenghi e costa 14,50 euro. Questo libro soprattutto di immagini molto belle, tra l'altro, che certamente indurranno i nostri bimbi non lettori ad aggiungere i loro segni e magari le loro prime prove di scrittura. Prima di salutarci vi ricordo che a Milano è in corso fino al 12 giugno la mostra dedicata ad Alberto Savinio. Si intitola La Commedia dell'Arte, curata da Vincenzo Trione, si svolge a Palazzo Reale ed è organizzata da 24 ore Cultura, che è una società che appartiene all'editore di questa radio. E in questa occasione vi propongo un gioco. Gli ascoltatori potranno vincere due ingressi e un catalogo della mostra. Per partecipare basta mandare un SMS al numero 349-238-6666 e scrivere nome, cognome, la parola Savinio. I due ascoltatori più veloci riceveranno appunto ingressi e catalogo. In bocca al lupo. E con questo ringrazio Claudia Carusi, redazione, e Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.